24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il tira e molla negoziale in Grecia fra la Troica internazionale e il governo ellenico. Le trattative si collocano sullo sfondo della grande attesa per il summit europeo di domani e venerdì a Bruxelles, nel quale a farla da padrone saranno anche l'unione bancaria, i piani di riforma del bilancio comunitario e il probabile salvataggio della Spagna. Oggi vi parleremo pure dello scontro tra Bruxelles e due multinazionali, Google e Ryanair. Infine, torneremo a parlare della questione delle sanzioni all'Iran. Questo dunque è il nostro sommario, ma in apertura una notizia destinata a far discutere. Il commissario europeo responsabile per la salute e i consumatori, John Dalli, si è dimesso con effetto immediato. Lo ha reso noto la stessa commissione, precisando che la decisione è stata presa dopo un reclamo da parte di un produttore di tabacco, a seguito del quale è stata condotta un'inchiesta del servizio antifrode Olaf. Il presidente della commissione, José Barroso, ha deciso di affidare al vicepresidente Markus Šefčovič l'interim del portafoglio salute e consumatori. Si sono prima interrotti, poi sono ripresi, dopo una pausa di circa mezz'ora, i negoziati sui tagli al bilancio pubblico per il prossimo biennio tra la Troica internazionale e il ministro del lavoro greco Vroutsis. Le trattative si erano interrotte dopo che il capo della Troica, Paul Thompson, era uscito dalla sala riunioni per contattare la responsabile dell'FMI, Christine Lagarde. D'improvvisa uscita dai colloqui del leader della Troica, che comprende, lo ricordiamo, anche i tedeschi Matthias Morse per l'Unione Europea e Klaus Masuch per la BCE, aveva imposto un rinvio delle trattative. Secondo i media ellenici, sarebbe stata la questione dei licenziamenti dei dipendenti statali a provocare l'improvvisa interruzione dei negoziati. Ricordiamo come da giorni la Troica insista sul fatto che Atene, nel tentativo di far quadrare i conti, debba licenziare 150.000 dipendenti pubblici entro il 2015. La Troica chiede inoltre che il governo ellenico tagli del 50% gli indennizzi per il licenziamento a partire dal gennaio 2012, quindi retroattivamente, e riduca il periodo di preavviso per licenziamento da 6 a 3 mesi. Tutte misure che vedono nettamente contrari molti deputati sia del Partito Socialista PASOK sia di Sinistra Democratica, schieramenti che appoggiano il governo di coalizione del premier Antonis Samaras. Solo poche ore prima era stato anche annunciato che i negoziati sarebbero andati per le lunghe, al punto che, pare, proseguiranno anche dopo il vertice europeo del 18 e 19 ottobre. Intanto filtrano le prime indiscrezioni sulla bozza di conclusioni proprio del summit comunitario che si apre domani a Bruxelles. L'ultima versione non riprende l'idea contenuta nel rapporto Van Rompuy, che indica come elemento chiave del nuovo bilancio unico dell'Eurozona la capacità di emettere obbligazioni, evocando anche bond del tesoro a breve termine e un fondo di riscatto del debito tra gli stati membri. Nelle 10 pagine di conclusioni non vi è alcun riferimento a questo. Il testo si limita a sostenere l'idea della solidarietà di bilancio. L'obiettivo dell'Eurozona è muoversi verso un quadro di bilancio integrato, si legge, precisando che deve essere uno strumento separato da quello comunitario da 27. I leader europei chiederanno anche all'Eurogruppo di definire gli esatti criteri operativi che guideranno la capitalizzazione diretta delle banche da parte del Fondo Salva Stati ISM nel pieno rispetto della dichiarazione del vertice dell'Eurozona del 29 giugno e quanto si legge nell'ultima versione della bozza del summit. Due settimane fa Germania, Finlandia e Olanda hanno rimesso in discussione la possibilità per l'ISM di ricapitalizzare direttamente le banche. Infine, i leader comunitari lanceranno un appello per raggiungere un'intesa su un accordo di libero scambio con il Giappone, per concludere presto quelli con Canada e Singapore e per lanciare nel 2013 negoziati per un ampio accordo transatlantico sul commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti. Per l'Olanda non ci sono intanto ancora le condizioni per l'Unione Bancaria Europea, questa è la posizione del ministro per gli affari europei Ben Knappen. E per la cancelliera tedesca Angela Merkel il processo di integrazione dei paesi dell'Eurozona non deve dividere l'Unione. Non vogliamo spaccare l'Unione Europea, ha detto la Merkel a Berlino in un incontro con l'Associazione dei datori di lavoro. Tutto sarà fatto per permettere di partecipare a chi vuole impegnarsi per ulteriori misure di cooperazione. E il ministro tedesco dell'economia Philipp Rösler prevede un rallentamento della crescita in Germania ma esclude una recessione. Se il 60% delle nostre esportazioni vanno in Europa e il 40% solo nell'Eurozona, ha considerato il ministro, è chiaro che la crisi dei debiti sovrani non possa passare su di noi senza conseguenze. Gli ulteriori sviluppi non dipendono solamente da noi, ma in buona parte dalla situazione dell'Eurozona, ha affermato. La Spagna sollecita i partner europei a mettere a punto una tabella di marcia che porti a un'unione bancaria e fiscale nel breve termine. E quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, per raggiungere l'obiettivo Madrid propone la creazione di un'autorità di bilancio comunitaria e l'emissione in comune di titoli di Stato a medio-lungo periodo. Ma la Germania conferma in modo netto di essere contraria ad ogni forma di condivisione del debito. Potete girare le cose come volete, chiamarli Eurobills o fondi di riscatto o Eurobond, ma questo tipo di emissioni di debito comune non si faranno con il nostro governo, ha affermato il sottosegretario tedesco agli affari europei Michael Link. Sulla questione vi riportiamo anche la posizione italiana. La condivisione del debito rappresenta per noi il controbilanciamento necessario a un eventuale rafforzamento di un'ulteriore disciplina di bilancio. Così il ministro agli affari europei Enzo Moavero Milanesi, annunciando che Roma si batterà al vertice europeo per mantenere aperta questa prospettiva. Parliamo ora di mercati. Chiusura sui massimi per le borse europee, spinte a fine seduta dalle indiscrezioni su un'apertura della Germania alla concessione di una linea di credito alla Spagna da parte del Fondo Anticrisi Europeo. Madrid più 3,35% e Milano più 2,53% sono state le borse migliori, grazie anche al buon esito delle aste sui titoli di Stato greci e spagnoli. A settembre l'inflazione nell'eurozona è rimasta stabile alla 2,6% come in agosto, lo rende noto Eurostat. Un anno fa il tasso era al 3%. Per la 12ª volta consecutiva a settembre le vendite di auto in Europa hanno subito una frenata, questa volta a due cifre. Il mese scorso, informa la CEA, le immatricolazioni nei 27 paesi europei più quelli EFTA hanno subito una flessione dell'11%. Tutela della privacy e protezione dei dati personali, questa è la richiesta dei garanti dell'Unione Europea a Google, il servizio. Google ha qualche mese per mettersi in regola. È quanto affermato da Isabelle Falk-Pierrotin, presidente dell'Authority francese per le libertà su Internet. Il colosso americano del web gestisce i dati personali di milioni di utenti che non sempre conoscono i termini e le condizioni, l'uso che di questi dati viene fatto. Dagli accertamenti condotti dalle autorità garanti della privacy dell'Unione Europea, infatti, Google, si legge nella nota, usa i dati degli utenti raccogliendoli in maniera massiva e su larghissima scala, in alcuni casi senza il loro consenso, conservandoli a tempo indeterminato. Il responsabile globale della privacy di Google, Peter Fleischer, ha dichiarato: siamo fiduciosi che la nostra informativa sulla privacy, si legge nel comunicato, rispetti la legge europea. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora lo scontro Europa Ryanair, sentiamo. Dopo l'annuncio shock di un hostess su un aereo diretto a Bari, definita città della mafia di San Nicola, la compagnia aerea irlandese Ryanair fa ancora parlare di sé, questa volta per evasione fiscale. La procura di Bergamo ha infatti iscritto nel registro degli indagati l'amministratore delegato Michael O'Leary e il suo braccio destro Julius Komorek. Per il PM Maria Mocciaro, la compagnia low cost avrebbe assunto a Dublino 220 dipendenti, domiciliati però in territorio italiano, a pochi passi dall'aeroporto di Bergamo Rialserio. Il vantaggio va tutto a carico di Ryanair, che godendo della minore tassazione sul lavoro applicata in Irlanda avrebbe risparmiato 12 milioni di euro, stando ai calcoli dell'INPS e Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo. Lì la tassazione degli stipendi è intorno al 12%, mentre in Italia è del 37%. Un vantaggio che si traduce in termini anche di competitività. Infatti le altre compagnie sono assoggettate al fisco italiano. Le autorità hanno proposto una via d'uscita a 90 giorni di tempo per pagare i contributi arretrati, estinguendo così il reato. Idea neanche presa in considerazione. O'Leary ha fatto scadere i termini convinto che i suoi equipaggi operano a bordo di aerei irlandesi e non svolgono in Italia alcuna attività lavorativa. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Serbia rinuncerà all'integrazione nell'Unione Europea se Bruxelles le chiederà ufficialmente di scegliere tra Europa e Kosovo e di riconoscere nel primo caso l'indipendenza di Pristina. Lo ha riferito il presidente serbo Tomislav Nikolic. Attualmente, ha aggiunto Nikolic, l'Europa ci tiene a distanza unicamente a causa del Kosovo, ma ci potrà tenere fuori per altri 100 anni perché noi non cambieremo posizione sulla nostra provincia meridionale. 26 membri del governo siriano sono tra gli obiettivi del nuovo pacchetto di sanzioni comunitarie decise dai ministri degli esteri e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Tra i 26 anche i vicepremier e ministri dell'economia e degli esteri Kadri Jamil e Walid al-Mualim, ritenuti parzialmente responsabili della violenta repressione che il regime esercita contro la popolazione civile. A tutti sono stati congelati i beni detenuti in Europa. Le sanzioni occidentali contro il programma nucleare iraniano sono illogiche e non porteranno risultati, a dichiararlo il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Non esiste una soluzione militare alla crisi siriana e una soluzione politica passa necessariamente per un coinvolgimento della Russia. Questa resta una strada in salita, ma è un passaggio obbligato anche per realizzare quella missione di peacekeeping che l'Italia auspica da tempo. È quanto afferma il ministro degli Esteri Giulio Terzi in un'intervista all'Unità. La guerra dei visti tra Bruxelles e Mosca potrebbe avere come prima vittima gli equipaggi delle compagnie aeree di alcuni paesi europei che dal 1 novembre rischiano di dover chiedere il visto per entrare in Russia. Lo rivela il quotidiano The Moscow Times, riportando un ultimatum del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, dopo il rifiuto dei negoziatori europei di rimuovere la necessità del visto per i dirigenti governativi russi. E la Spagna è il primo paese in Europa per abbandono scolastico e cattiva integrazione lavorativa dei giovani, secondo il rapporto annuale Educazione per Tutti 2012 dell'UNESCO. Uno spagnolo su tre fra i 15 e i 24 anni ha lasciato gli studi prima di terminare la scuola secondaria, rispetto alla media europea di 1 su 5, cifre che per i responsabili dello studio sono preoccupanti dal momento che si tratta di un paese duramente colpito dalla crisi e dove la disoccupazione giovanile ha già superato il 50%. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.